Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Penso che sia giusto e doveroso parlarsi con grande chiarezza, parresia l'avrebbero definita alcuni di noi, e con una trasparenza totale. Dal primo giorno del mio mandato come segretario non ho vissuto un solo momento senza che vi fosse polemica interna. Questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, lamenta il presidente del Consiglio Renzi, nonché segretario del PD. Dice, insomma, da quando sono stato nominato presidente del Consiglio non avete lasciato stare un solo momento. Questo appunto dal suo punto di vista. Oggi lo ha detto la direzione del PD, la direzione nazionale del PD, che è insomma l'organo che determina un po' la direzione effettivamente che poi il partito deve prendere. Al centro c'era questa sfilacciatura, questa spaccatura all'interno del partito tra maggioranza del partito e minoranza del PD, che minaccia di votare no al referendum, quindi contro la linea di Renzi. Sono arrivati in qualche modo a una sintesi? Ebbene no, però ne parleremo diffusamente qui a Effetto Notte, parleremo di politica, in particolare appunto della direzione del PD. Poi a proposito di politica ci sposteremo invece negli Stati Uniti, dove prosegue la corsa, la campagna elettorale per le presidenziali, con Trump che perde sicuramente punti dopo lo scandalo del video sulle frasi sessiste, però Hillary Clinton, che ha comunque vinto anche in questo secondo duello TV, pare non l'abbia messo ancora KO, quindi resiste, mentre invece non desiste Fabrizio Corona, che evidentemente continua a fare cose poco lecite e quindi torna in carcere. Poi vi racconteremo perché. Intanto lo sapete che per le vostre interazioni, interagire qui a Effetto Notte, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666, 349-238-6666, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Ma come sempre all'inizio sentiamo che giornata è stata. La direzione nazionale del PD: non blocco il paese per tenere unito il partito, dice Renzi alla minoranza e apre alla modifica dell'Italicum. Unione Europea e flessibilità: la Commissione è disponibile a prendere in considerazione la flessibilità, dice il commissario Moscovici, ma allo stesso tempo serve che l'Italia continui a essere seria nello sforzo di riduzione del deficit. Presidenziali americane: dopo la diffusione del video con le frasi sessiste di Donald Trump, Hillary Clinton vola nei sondaggi, vince anche nel duello TV, ma non mette KO l'avversario repubblicano. Terrorismo per il ministro dell'interno tedesco: anche la Germania rischia come la Francia e il Belgio. Oggi arrestato un profugo siriano sospettato di terrorismo. Violenza sui minori: negli ultimi 5 anni la pedopornografia è in aumento, 5.080 le vittime nel 2015. A subire le violenze sono nell'81% dei casi le bambine. Fabrizio Corona torna in carcere, è stato arrestato questa mattina dopo il sequestro di quasi 2 milioni in contanti. È un delinquente professionale, scrivono i PM, e spuntano soldi in nero anche in Austria. Nobel per l'economia: è stato assegnato per la teoria dei contratti sviluppata da due studiosi, Oliver Hart e Bengt Holmström. Tecnologia: ancora problemi alle batterie del Note 7, Samsung sospende la produzione. E partiamo quindi dalla direzione nazionale del PD, ovvero vi spiegavo appunto l'organo che si occupa di stabilire l'indirizzo politico del partito. Quella di oggi era una riunione che si annunciava particolarmente tesa, avendo al centro del dibattito la frattura della minoranza del partito che minaccia di votare no al referendum costituzionale del 4 dicembre. Il presidente del Consiglio, anche il segretario del PD Renzi, ha ripercorso l'operato del governo, rivendicato che nel PD le decisioni vengono prese democraticamente, e poi, pur ribadendo il giudizio molto positivo sull'Italicum, la riforma della legge elettorale, ha aperto la discussione sia sulla legge elettorale per il Senato sia per la modifica della legge elettorale per la Camera. Per cercare l'unità del partito, però, ha concluso Renzi, non siamo disponibili a bloccare il paese. Sentiamolo. Con questa libertà vi dico anche con molta franchezza che la nostra responsabilità di tenere unito il partito non può arrivare al punto di tenere fermo il paese. Noi siamo qui perché l'Italia ha bisogno di mettersi in moto. Il Partito Democratico ha fatto questo in questi 3 anni. E ora uno dei principali esponenti della minoranza PD, Gianni Cuperlo. E per quanto mi riguarda, se un accordo vero non ci dovesse essere, io il 4 dicembre non potrò votare quella riforma che per 3 volte ho votato nell'aula della Camera, ma devi essere sereno, perché se a quella scelta tu mi spingerai, Sarà mia cura nello stesso istante comunicare alla Presidente della Camera le mie dimissioni da deputato. E vedo adesso un'agenzia che dice: la direzione PD ha approvato la relazione del segretario Matteo Renzi con nessun voto contrario e nessun voto astenuto. La minoranza PD, a quanto si apprende, non ha votato. E questo in estrema sintesi, poi vi dicevo, torneremo a parlarne. Renzi oggi tra l'altro ha parlato questa mattina all'Assemblea di Assolombarda a Milano. Un segnale immediato per far ripartire il credito e la fiducia, per aiutare soprattutto chi non ha i requisiti previsti dalle grandi regole europee. Il presidente del Consiglio Renzi interviene all'Assemblea di Assolombarda ed annuncia un provvedimento d'urgenza con nuove risorse per il fondo di garanzia. Mettiamo 900 milioni secchi subito, tra l'altro una parte li metteremo già nel 2016 con un provvedimento d'urgenza, quindi non soltanto metteremo i 900 milioni sul fondo di garanzia, ma li anticiperemo una parte al 2016, come deciso con il ministro Calenda e il ministro Padoan, per dare un segnale immediato. Perché bisogna pompare. Sono convinto delle nostre potenzialità, a condizione che l'Italia smetta di essere la patria delle divisioni e cominci ad essere la patria della visione, dice ancora il Premier. Questo rivendica Renzi. È un paese che rispetto a 3 anni fa si è smosso dalla palude. Dal meno 2 siamo passati al più 1% di crescita. Non è ancora sufficiente, ma è chiaro che la direzione è tornata giusta. Quanto ai rapporti con Bruxelles, il Presidente del Consiglio spiega: battiamo i pugni non per un trafiletto sui giornali, ma per cambiare la direzione di marcia nell'Unione Europea. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Puntare sulle aree più avanzate del paese, come Milano e Interland, che in circa 60 chilometri concentrano il 25% dell'export della manifattura italiana. Nella settimana in cui si compone la manovra all'Assemblea Generale di Assolombarda e Confindustria Milano, Monza e Brianza, il presidente Gianfelice Rocca lancia a nome degli industriali lombardi, davanti al premier Matteo Renzi, Milano Steam, modello e locomotiva del paese. Steam è un concetto che riguarda molto anche l'education, scienza, tecnologia, environment, art e manufacturing. La crescita deve essere il nostro progetto per il paese, gli fa eco il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, che, viste le risorse ristrette, elenca i pilastri su cui concentrare gli interventi a sostegno dell'economia reale. Il primo asso è la produttività. Abbiamo chiesto al governo di intervenire sulla politica fiscale legata alla produttività, detassando maggiormente i premi di produzione nei contratti di secondo livello aziendale. Secondo asse, riattivazione di investimenti privati. Sulla questione finanza abbiamo proposto al governo di prevedere benefici fiscali per aumenti di capitali, perché si può e si deve crescere senza debito. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E siamo al capitolo dei conti pubblici, tema di cui si è parlato oggi a Bruxelles. La Commissione europea si è sempre mostrata disponibile a usare la flessibilità di bilancio prevista dalle regole europee, ma l'Italia deve continuare a essere seria nello sforzo di riduzione del deficit. Pier Moscovici, commissario europeo agli affari economici, detta la linea sulla maggiore flessibilità di manovra auspicata dal nostro governo. L'Italia, replica il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, lavora in assoluto rispetto delle regole e in collaborazione con Bruxelles. Il governo, dice, sta preparando il bilancio che sarà approvato a fine settimana dal Consiglio dei Ministri. Buone notizie intanto arrivano sul fronte industriale, con la produzione che in agosto vola a sorpresa dell'1,7% rispetto a luglio e del 4,1% su base annua. Il risultato migliore rende noto l'Istat da 5 anni a questa parte. Dati positivi, ma, avverte l'Istituto di Statistica, agosto è un mese anomalo, tipicamente caratterizzato da livelli di produzione molto bassi, tanto che il Centro Studi di Confindustria stima una forte oscillazione in settembre, con la produzione in flessione dell'1,8%. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E siamo dalla politica italiana alla politica americana, con le elezioni presidenziali, nuove scintille nel secondo duello televisivo fra i due candidati alla presidenza americana, e a pochi giorni dal sexy scandalo che ha colpito Trump. Anche stavolta la CNN dà la vittoria alla Clinton, ma il tycoon resiste. Lo scontro in particolare sul sessismo e mail con Trump, che porta in sala le accusatrici di Bill Clinton e attacca la candidata democratica, dicendo che se fosse lui a decidere lei sarebbe in galera. Hillary dribbla le trappole sull'infedeltà del marito, ma non assesta, viene detto, il colpo finale, il KO, forse per evitare un terreno minato anche per lei. Restiamo negli Stati Uniti con gli aggiornamenti per quanto riguarda l'uragano Matthew. Gli allagamenti senza precedenti provocati dall'uragano, spostatosi nell'oceano Atlantico e ora classificato come una tempesta post-tropicale, hanno causato la morte di almeno 20 persone nel sud-est degli Stati Uniti. Continua invece a salire il bilancio di chi ha perso la vita ad Haiti, dove si è superata ormai quota 1000. Stando al Servizio Meteorologico Nazionale, la tempesta si sta spostando spostando verso le province marittime canadesi, dove dovrebbe arrivare in serata, portando precipitazione lungo parte della costa orientale degli Stati Uniti. E siamo ancora sulle notizie dall'estero, con la notizia che arrivano dalla Germania. Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire la sicurezza della popolazione, ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel, dopo la cattura questa notte a Lipsia di un 22enne siriano ricercato da sabato con l'accusa di preparare un attentato. Decisiva la soffiata di due sue connazionali. A fine giornata tocca al ministro dell'interno Thomas de Maizière trarre l'unico insegnamento possibile dai fatti di Chemnitz. Le indagini hanno dimostrato che atti terroristici, come li abbiamo visti in Francia e in Belgio, non sono da escludere in Germania, dice, constatando che i preparativi per la messa a punto di una veste esplosiva nella città sassone ricordano da vicino quelli di Parigi e Bruxelles. Der Sprengsatz möglicherweise in Form einer Sprengstoffweste. E lasciano poco spazio all'immaginazione anche le parole di Jörge Michaelis, capo della polizia sassone. La carica esplosiva, dice Michaelis, possibilmente nella forma di una veste, era quasi pronta o addirittura già pronta all'utilizzo. Michaelis ha sgomberato il campo anche da dubbi sulla fonte ispiratrice di Jaber al-Bakr, l'ISIS. Il 22enne, giunto come profugo a Monaco nel febbraio dello scorso anno, avrebbe cominciato a cercare informazioni su internet sulla preparazione di una carica esplosiva a inizio ottobre. Il chilo e mezzo ritrovato nel suo appartamento, altamente pericoloso, sarebbe TATP, lo stesso usato negli attentati della cellula franco-belga di Salah Abdeslam. Un altro anello di congiunzione che spalanca le porte a ulteriori interrogativi. Era davvero l'aeroporto di Berlino l'obiettivo dell'attacco? E chi ha aiutato al-Bakr, a parte Khalil, il 33enne che le aveva affittato casa, ordinando materiale sospetto per lui online? Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito di terrorismo, l'Italia ha espulso dal territorio nazionale un altro straniero per motivi di sicurezza. Si tratta di un cittadino tunisino di 32 anni, residente in provincia di Siracusa, molto attivo in un forum di discussione jihadista su internet ed espulso in Tunisia con un volo decollato oggi dall'aeroporto di Palermo. E oggi è la giornata mondiale delle bambine, oggi 11 ottobre, in occasione di questa giornata Terre des Hommes ha presentato il nuovo dossier, si intitola In difesa, la condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo, e ha lanciato la campagna omonima per accendere i riflettori sui diritti negati a milioni di bambine in Italia e nel mondo. Il presidente di Terre des Hommes, Raffaele Salinari, ha detto: le indifese sono prima di tutto le bambine, questo significa che abbiamo un aumento della violenza nei loro confronti. Per quanto riguarda la pedopornografia, ha toccato la drammatica quota di più 543%. Negli ultimi 5 anni in Italia il numero di vittime minorenni, secondo il dossier, è passato da 4.946 nel 2011 a 5.080 nel 2015. Il 60% di chi subisce abusi e violenza sono bambine e ragazze, dato che sale all'87% quando si tratta di violenze sessuali e al 91% per i minori che entrano nel giro di produzione di materiale pornografico, cioè al 91% sono bambine. Tra i nemici più feroci delle bambine e delle ragazze, dice Terre des Hommes, abbiamo a che fare con i minori che hanno 13-14 anni, i loro coetanei, che commettono abusi sessuali e atti di violenza a sfondo sessuale o chiaramente sessuali nei confronti delle loro coetanee, ragazzini che abusano di ragazzine, ha spiegato il presidente di Terre des Hommes, aggiungendo: questo problema viene risolto con l'educazione, evidentemente al superamento degli stereotipi di genere, a un rapporto più equilibrato tra le ragazze e i ragazzi. Cronaca, Fabrizio Corona: per i magistrati è un professionista del reato e torna in carcere. Fatali per lui contanti, quasi 2 milioni di euro trovati a Milano e un conto corrente austriaco, sarebbero frutto di pagamenti in nero. Più tardi qui Effetto Notte torneremo a parlarne. Per quanto riguarda la TV, Report, storico marchio di inchiesta di Rai 3, compie 20 anni e Milena Gabanelli, fondatrice e anima del programma, si prepara a lasciare la conduzione dopo questa stagione. L'ho annunciato a sorpresa stasera nel TG1 delle 20, è la cosa più bella che io abbia fatto dopo mia figlia, ha detto la Gabanelli. Tuttavia, dopo 20 anni penso che sia venuto il momento di dire che questa sarà la mia ultima stagione alla conduzione, continuerò a fare il mio mestiere, ha detto Milena Gabanelli. Stasera intanto il programma apre il suo nuovo ciclo. E parliamo del Nobel per l'economia, che va a un britannico e un finlandese. 68 e 67 anni, uno di Londra, insegna all'Università di Harvard, l'altro, originario di Helsinki, è docente al MIT di Boston. Oliver Hart e Bent Holmstrom, spiazzando tutti i pronostici, si aggiudicano il 48esimo premio Nobel per l'economia per il loro contributo alla teoria dei contratti. I nuovi strumenti teorici creati da Hart e Holmstrom sono preziosi per comprendere i contratti tratti che tengono insieme le economie moderne e il funzionamento delle istituzioni, spiega l'Accademia svedese. Holmström ha dimostrato come un principale, per esempio l'azionista di una società, dovrebbe disegnare un contratto ottimale per sé e per un suo agente, l'amministratore delegato, legando lo stipendio alla performance. Hart si è occupato in particolare dei contratti incompleti, che non riescono cioè a prevedere tutte le possibili circostanze. I loro studi sono stati applicati a vari settori, dall'economia al diritto alla politica. Livia Zancanero, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con il Nobel direi di chiudere allora questo riassunto della giornata. Voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure i WhatsApp SMS al 349-238-6666. Vedo per esempio Lidia che scrive: ma la minoranza PD si rende conto di quanto è assurdo aver votato per 3 volte la riforma e ora votare contro? E gli elettori se ne rendono conto? Ne parleremo tra poco, Lidia. E poi invece c'è un ascoltatore o ascoltatrice che si firma Ivanka, come una delle figlie di Trump, dice: nel dibattito di ieri a Trump è stata rinfacciata qualche vecchia chiacchiera mentre egli è accusato di delitti. Vittoria di Trump per KO, dice questa ascoltatrice. Vedremo, parleremo di entrambi questi temi fra le altre cose, ma dopo la viabilità. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano con voi di nuovo, dopo poco, quindi vi ho raccontato come sempre la giornata in sintesi. Adesso cominciamo a entrare nel cuore di alcuni argomenti in particolare, alcuni dei principali, come appunto la direzione del PD che si è chiusa da poco con un voto, leggevo prima, all'unanimità da parte della maggioranza, mentre la minoranza non ha votato la relazione del segretario, nonché Presidente del Consiglio, Renzi. Voi i vostri messaggi sempre alla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666 per WhatsApp ed SMS. Ringrazio Luca che dice: buonasera Roberta, potresti andare tu a Report, visto che Milena Gabanelli ha appena annunciato che è l'ultima stagione per lei. Devo dire, io rimango fedele a Radio 24, in più Milena Gabanelli è molto molto molto più brava, quindi non ci sono paragoni. Direi adesso di ricordarvi quali sono le notizie principali se non avete acceso puntualmente la radio alle 21, dopodiché cominceremo con il primo ospite. Direzione del PD, Renzi apre sul cambio, sulla modifica all'Italicum, la minoranza Dem dice non basta, e poi Cooperlo dice la proposta del PD sia prima del referendum. Le presidenziali americane dopo il video sessista, Hillary Clinton vola all'11% su Trump, nel duello TV ha vinto lei, però non sfonda ancora. E poi per quanto riguarda la flessibilità dei conti italiani, Moscovici, commissario europeo, dice siamo disponibili, ma l'Italia deve dimostrare serietà sul controllo del deficit. Produzione industriale italiana al top dopo 5 anni ad agosto, un più 4,1%. E poi Fabrizio Corona, che torna in carcere per il PM, è un delinquente professionale, manette dopo la scoperta di un tesoro di quasi 2 milioni, intanto è stato sospeso l'affido ai servizi sociali. In Italia un siriano catturato in Germania, legato all'ISIS, era un profugo, e poi anche in Italia Alfano ha annunciato di aver espulso un tunisino già noto Oltralpe. E poi ancora Nobel dell'economia, è andato alla teoria dei contratti, assegnato a Hart e Holmström, e poi è morto il regista polacco Andrzej Wajda, aveva 90 anni. Quindi parliamo della direzione nazionale del PD, con al centro soprattutto il confronto con la minoranza, con una constatazione da parte di Renzi che sintetizza insomma queste difficoltà interne che ci sono da tempo, almeno dal suo punto di vista. Dice: non possiamo tenere fermo il paese per tenere unito il partito. Cosa significa? A un certo punto vuol dire: se voi vi volete staccare, voi minoranza, io faccio il possibile. E questo è quanto dice Renzi. Vogliamo sentire un primo passaggio, avete sentito già all'inizio, dove dice: io sono stato attaccato dall'inizio. Penso che sia giusto e doveroso parlarsi con grande chiarezza, parresia l'avrebbero definita alcuni di noi, e con una trasparenza totale. Dal primo giorno del mio mandato come segretario non ho vissuto un solo momento senza che vi fosse polemica interna. E allora, siccome la questione è che la minoranza minaccia di votare no al referendum perché vorrebbe delle modifiche all'Italicum prima, sentiamo sull'Italicum l'apertura di Renzi. Noi pensiamo che il Partito Democratico possa discutere insieme ai propri compagni di strada e agli altri che adesso improvvisamente hanno scoperto la gioia di confrontarsi sulle leggi elettorali, e noi siamo disponibili a farlo, sui tre punti fondamentali, che sono essenzialmente il ballottaggio sì o no, voi sapete la mia opinione in materia, il premio alla lista o alla coalizione, e anche in questo caso voi sapete la mia opinione in materia, e il modo con il quale si scelgono i deputati, che poi essenzialmente si compone di tre elementi, che sono o i collegi, o le liste bloccate, o le preferenze. E sentiamo quindi Renzi che cosa propone per trovare un compromesso. Propongo che vi siano in questa discussione tempi certi. Ovviamente non possiamo farlo durante la campagna referendaria, ma non c'è dubbio che possiamo iscrivere all'ordine del giorno delle commissioni, della commissione, vediamo quale, la discussione nel merito fin dalle settimane successive, prima della fine dell'anno, della settimana successiva al referendum e prima della fine dell'anno. La delegazione che propongo possa seguire questo lavoro è composta dal vice segretario Lorenzo Guerini con funzioni di coordinamento, i due capigruppo, il presidente più un esponente della minoranza, che lascio alla minoranza il compito di scegliere perché non mi permetto di intervenire nel merito. E sentiamo un esponente autorevole della minoranza PD, Gianni Cuperlo, che cosa ha risposto. L'idea di bloccare per altri due mesi il Paese su di un referendum che è così, naturalmente, lo sappiamo, che comunque vada, non avrà impatto diretto su alcuno dei problemi che ci aggrediscono, resta per me una scelta incomprensibile. E ancora Cuperlo che dice se non si trova un accordo io voterò no, ma un momento dopo mi dimetterò. Se un accordo vero sulle cose che si sono dette qui, su quel sentiero, non ci dovesse essere, io il 4 dicembre non potrò votare quella riforma che per tre volte ho votato nell'aula della Camera, ma devi essere sereno, perché se a quella scelta tu mi spingerai, sarà mia cura nello stesso istante comunicare alla Presidente della Camera le mie dimissioni da deputato. Così ha concluso Cuperlo. Ne parliamo con la nostra Betta Fiorito in diretta da Roma. Elisabetta, buonasera. Buonasera, buonasera radioascoltatori. Allora, so che Renzi stranamente ha parlato solo mezz'ora nella sua relazione, di solito sì, fiume in piena. È stata una relazione, devo dire, molto breve. Poi all'inizio era un po' estraniante il fatto che nessuno era iscritto a parlare, quindi c'era questa situazione un po' di attesa, un po' strana, perché generalmente nelle direzioni PD ci sono 40 iscritti a parlare, no? Si fa notte, eccetera. Invece è stata una direzione abbastanza breve, perché si è conclusa poco fa, è iniziata alle 5:30, quindi non è stata per i tempi del PD lunghissima, però è stata sostanziale. Allora, Renzi ha aperto sull'Italicum, la minoranza vuole vedere la legge un po' scritta, un pochino più di sostanza, un pochino più di ciccia, quali sono queste modifiche che Renzi effettivamente vuole fare sui collegi, sui ballottaggi, ha detto quindi il Premier. Dall'altra parte però Renzi ha voluto inchiodare la minoranza alle responsabilità, cioè io sono disposto a cambiare anche con un esponente della minoranza e subito dopo il referendum, non deve diventare un tormentone. E la minoranza ha detto questa proposta è insufficiente, le parole di Roberto Speranza. Gianni Cooper l'ha detto, se non è una cosa seria come abbiamo sentito io mi dimetto. Quindi la spaccatura rimane, però c'è comunque l'apertura di Renzi, tant'è vero che la fedelissima Deborah Serracchiani ha subito detto adesso non ci sono più scuse, non ci sono più alibi. Cioè, anche se mi sembra Elisabetta che in realtà la minoranza PD, oltre a chiedere delle modifiche, dice le vogliamo vedere prima e semmai che no, siano chiare prima di fare il referendum e non dopo. Sì, questa è la richiesta della minoranza PD, però dall'altra parte Renzi vuole dire allora facciamola questa proposta, ma deve essere la legge elettorale, non cominciamo, non deve essere un pretesto, non deve essere un alibi, cioè Renzi vuole mettere un pochino all'angolo la minoranza PD. Non è che state facendo tutte queste proteste semplicemente perché per un giorno, come abbiamo sentito nel primo insert, voi non mi avete mai lasciato in pace, mi avete sempre attaccato. Sì. Allora, che cos'è? È la questione della legge elettorale oppure non è la legge elettorale? È questo che vuole vedere Renzi. Dall'altra parte la minoranza giudica questa apertura insufficiente, ora vediamo come risolverà nei prossimi giorni, però ricordiamoci cioè da che si parlava di scissione, e Cuperlo oggi un pochino l'ha accennato, dopo il 4 al limite ci possiamo salutare, questa scissione sembra ancora un po' temporeggiare, insomma, quindi non è del tutto. A lei già da tanto tempo, ma rimane lì congelata. Senti, sì, gli ascoltatori, a proposito di Renzi, che ha detto non possiamo tenere fermo il paese per tenere unito il partito, per cui anche lui dice, insomma, se voglio andare avanti e voi ve ne andate, andate. Simone dice, mi sembra logico, però una dichiarazione di sconfitta non è riuscito a tenere unito il PD, dice Simone. Alessandro dice, la divisione del PD in questo momento è fattore di debolezza aggravata dall'ascesa dei pentastellati, anche qui all'estero, perché molti sentono effetto note naturalmente da tutto il mondo, dice, anche qui all'estero assistiamo alle difficoltà dei dirigenti nell'organizzazione 20 in un partito tanto diviso, per esempio comitati per il sì e per il no organizzati allo stesso tempo, dice Alessandro. Poi Francesco, ottimo auspicio per Renzi, cioè di, non che non c'è bisogno di tenere unito il partito, quando mai la minoranza PD ne ha azzeccata una, e molti altri messaggi, insomma. Quindi è un messaggio, una minaccia, oppure per dire io arrivo fin qui e oltre non posso andare, Betta? Ma la minoranza si sta sempre più assottigliando, no? Prima c'era Civati, poi c'era Dattore che hanno lasciato il partito. La Bersani, cosa fondamentale... Bersani ieri al Corriere, ricordiamo che ha detto in un'intervista, sono stato trattato come un rottamato, no? Quindi non c'era neanche oggi, mi sembra, o no, la direzione PD? Non c'era, l'ha disertato, l'ha disertata la direzione PD, la spaccatura c'è sempre stata, la spaccatura è figlia delle elezioni, tant'è vero che anche oggi Renzi ha detto le elezioni poi però bisogna vincerle. Ricordiamo che le elezioni il PD non le ha vinte, o comunque le ha vinte solo parzialmente, perché si sono trovate in campo tre forze politiche quasi uguali. Perché? Perché Renzi era stato sconfitto come segretario da Bersani, con un secondo turno non aperto a chi voleva votare, se ci ricordiamo proprio la storia, quindi c'è sempre stata credite tra i due schieramenti. Dopo che Bersani non è riuscito a conquistare Palazzo Chigi, a quel punto Renzi ha indetto un nuovo congresso e l'ha stravinto. È chiaro che quello che era la maggioranza è diventata minoranza, e quindi la rottamazione, insomma, sappiamo tutte le cose. Il problema è, il PD vuole cambiare pelle, vuole essere renziano, perché con Bersani non si vince, questa è la tesi di Renzi. La tesi della sinistra, attenzione a non andare al centro e perderci la sinistra, questa è la tesi della sinistra. In mezzo ci sta l'Italia, come vediamo, come cosa succederà con questo coordinamento che Renzi ha proposto, anzi addirittura ha detto anche due esponenti della minoranza, sceglieteli voi, eccetera. Per fare una commissione, vediamo, che valuti un po' che modifiche fare, no? Vediamo che cosa, come verrà modificato e se queste modifiche piaceranno e saranno ritenute sufficienti per la minoranza affinché il combinato disposto, insomma l'associazione, per dire, imparare a muovere tra riforme costituzionali e legge elettorale, che ricordiamo è una legge ordinaria, quindi staccata dalle riforme, non possa avere una deriva autoritaria. Questa è la sostanza. Ti leggo qualche altro messaggio, Betta, sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Cesare, per esempio, scrive: provo pena per quelle mezze calzette tipo Bersani, Cuperlo e compagnia cantando, che hanno vinto le elezioni, se le sono fatte soffiare da sotto il naso, adesso minacciano strappi e strappetti, ma chi la volete dare a bere? Poi Fabio dice: penso che è un po' complottista Fabio, perché dice: penso che sia in ogni caso una minaccia. Renzi è chiaro che è solo un portavoce di JP Morgan, che già nel 2013 afferma di voler abbattere la Costituzione italiana. Non so se ti risulta, Betta. Poi Danilo dice: manca purtroppo un rivale credibile, non c'è all'interno del PD e non c'è nemmeno sul fronte opposto. Renzi questo lo sa, tanto da permettersi di sparare palle a raffica anche contro se stesso, come un tennista che gioca da solo. Quindi abbiamo anche la metafora sportiva qui. E poi, mentre dice questa ascoltatrice, Silvana, spero che Renzi vada avanti e ringrazio che esista, lo stimo. Come vuoi concludere, Betta Fiorito? Oddio, insomma, ringrazio che esista, ora sembra un po' eccessivo. Io sono contraria a queste forme di fanatismo. È qualcuno politico, entusiasta, e qualcuno invece al contrario. No, sì, no, ma non solo nei confronti del Premier, anche nel Movimento 5 Stelle, dove i fan sono ancora più agguerriti. Insomma, bisogna sempre avere un pochino di distacco e pensare che sono dei nostri rappresentanti che vanno votati e devono poi amministrare i nostri soldi, e quindi si devono comportare bene. Detto questo, il problema è uno: Cuperlo potrebbe mai vincere le elezioni? E Renzi sa qual è la risposta? No. Speranza le potrebbe mai vincere? No. Renzi forse le può vincere, anche se poi ha davanti un competitor come il Movimento 5 Stelle. Quindi, insomma, ecco, questa è la questione all'interno del PD, e lo sa pure la minoranza. Oltretutto, chi lascia il partito poi sparisce, perché abbiamo visto sparire Civati, abbiamo visto sparire Dattore. Insomma, sì, fanno parte di forze politiche, però non hanno più lo stesso peso. La stessa visibilità. Quindi il problema della minoranza è che finché si sta dentro il PD qualcosa si conta. Se si esce dal PD non è detto che si conti qualcosa. Ecco questo. Infatti, dice questo ascoltatore, Renzi dice fate le proposte, vi ascolto, ditemi cosa volete, ma poi alla fine fa sempre come dice lui, appunto, come dice tu, in forza della sua forza. E poi un altro, il presidente del Consiglio, segretario del PD, ormai il paladino del lamento, dice, si firma un gufo. Direi di chiudere qui, cara Betta, ti ringrazio, Betta Fiorito da Roma. Grazie. E poi vediamo che cosa succede il 4 dicembre, se le urne poi daranno ragione alle riforme volute da Renzi, oppure se daranno invece ragione allo status quo e il fatto che la maggioranza degli italiani decide che vuole questa Costituzione col bicameralismo perfetto e con i problemi che abbiamo visto in tutti questi anni il bicameralismo perfetto comporta. Però magari si sentono più garantiti, quindi vediamo che cosa succederà. In libertà, o il sì o no, ci arriviamo piano piano al 4 dicembre. Liliana conclude, ma ti rendi conto che la maggioranza PD ha fatto una mozione per cambiare l'Italicum dopo averci sfracassato per mesi che era la migliore legge possibile. Va bene, su questo ci salutiamo. Grazie a Betta Fiorito, ritorno tra pochissimo con voi, continuate a interagire con la pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, tra poco con altri temi. Cos'è stato? C'è qualcuno? Sono io, Dylan Dog. Quel Dylan Dog. E lui è il mio amico Grucio. Ciao, bello. Intenditrice, eh? E dovresti vedermi nudo a cavallo. Impazziresti per il cavallo. Piantala, Grucio, non possiamo. Siamo già in ritardo. Mi aspettano a Radio 24. Che cosa devi fare? Vogliono che racconti le 8 storie più emozionanti dei miei 30 anni di avventure. Ma quando ci risentiamo? Su Radio 24 tutti i sabati alle 15 e quando vuoi in podcast su radio24.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice, con voi Roberta Giordano. Ma adesso cambiamo tema, abbiamo parlato della direzione PD e di questa difficoltà di compromesso, della possibilità di trovare unità all'interno del Partito Democratico, soprattutto adesso sulla questione delle riforme, del referendum del 4 dicembre, dell'Italicum, eccetera. Riassunto della giornata l'avete sentito all'inizio, adesso cambiamo temi, tra poco parleremo del caso Corona che torna in carcere dopo pochi mesi di affidamento ai servizi sociali. Capiremo tra pochissimo perché. Intanto continuo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al numero 349-238-6666. Ancora diversi sulla questione politica. Ulisse dice il referendum è votare pro o contro Renzi. Questo si è detto perché lui stesso ha ammesso di aver fatto l'errore sin dall'inizio, di averlo un po' troppo personalizzato. E poi invece un altro messaggio che dice il PD è un'unione di troppi partiti, si divida più che di partiti, di anime. Continuate con i vostri messaggi, vi ricordo quali sono le notizie principali di oggi. La direzione nazionale del PD non blocca il paese per tenere unito il partito, dice Renzi alla minoranza e apre alla modifica dell'Italicum. Unione Europea e flessibilità, la Commissione è disponibile a prendere in considerazione la flessibilità, dice il commissario Moscovici, ma allo stesso tempo serve per che l'Italia continui ad essere seria nello sforzo di riduzione del deficit. Presidenziali americane, dopo la diffusione del video con le frasi sessiste di Donald Trump, Hillary Clinton vola nei sondaggi, vince anche nel duello TV ma non mette KO l'avversario repubblicano. Terrorismo per il ministro dell'interno tedesco, anche la Germania rischia come la Francia e il Belgio, oggi è arrestato un profugo siriano sospettato di terrorismo. Violenza sui minori, negli ultimi 5 anni la pedopornografia è in aumento, 5.080 vittime nel 2015, a subire le violenze sono nell'81% dei casi le bambine. Fabrizio Corona torna in carcere, ne parleremo tra pochissimo. Nobel per l'economia è stato assegnato per la teoria dei contratti sviluppata da due studiosi, Oliver Hart e Bengt Holmström. Tecnologia, ancora problemi alle batterie del Note 7, Samsung sospende la produzione. Quindi dobbiamo tornare a parlare di Fabrizio Corona, noto agente dei paparazzi, dopo una lunga vicenda che l'ha visto finire in carcere per 2 anni e mezzo, poi uscirne nel giugno 2015 per essere affidato ai servizi sociali, ora torna in galera. Corona è stato infatti arrestato questa mattina in relazione a 1.760.000 euro scoperti nella casa, nel controsoffitto della casa di una collaboratrice, appunto lì nascosti, con l'accusa di intestazione fittizia di beni. Poi ci sarebbe adesso altro conto che è venuto fuori in Austria, anzi un borsone pieno di buste bianche piene di soldi. L'aggravante, e ne parlo con Giuseppe Guastella, giornalista del Corriere della Sera, che saluto e ringrazio. Ciao Giuseppe. Grazie a voi, saluti agli ascoltatori. L'aggravante, dico Giuseppe, sarebbe che tra l'altro ha commesso questo durante l'affidamento in prova ai servizi sociali. Sì, certo. Certo. Ci chiarisci un po' questa vicenda? Ma la vicenda è tragicamente semplice per il suo dipanarsi. Corona da circa 1 anno e mezzo è uscito dal carcere prima era stato affidato alla comunità di Don Mazzi, dopo però ha avuto un affidamento terapeutico per curarsi dalla dipendenza dalla cocaina. Gli restano 6 anni da scontare in carcere, e stava scontando appunto queste 6 anni di pena residua, sì. E li stava scontando appunto all'affidamento terapeutico. Ora, secondo l'accusa, lui, come tutti sappiamo, è andato a fare un po' in giro per tutta l'Italia delle serate, era in questo modo che lui si guadagnava da vivere, ed era questo il lavoro che gli era permesso proprio dal tribunale di sorveglianza, quello che lo teneva sotto controllo, quello che seguiva il suo programma di recupero per il reinserimento nella società. Il punto fondamentale qual è che ha fatto il nero, almeno così dice lui, un nero pazzesco, perché parliamo di circa 3 milioni di euro in un anno e mezzo circa, più che altro. E fruttano queste serate, bisogna dire. Evidentemente sì, ma il sospetto comunque non fin troppo velato è che ci possano essere altre provenienze di questi soldi, almeno così dice il giudice. Il GIP Guidi dice beh, bisogna guardare bene, perché mi sembrano veramente esagerate queste somme, quindi bisogna guardare bene la provenienza di questi soldi. Ha definito un delinquente professionale, tra l'altro. Sì, nel senso che sì, questa è una affermazione giuridica, chiamiamola così, della procura recepita dal GIP. Perché? Perché per Corona ha alle spalle una lunghissima serie di reati. Bisogna ricordare che è stato condannato a qualcosa come 15 anni di carcere in tutto, e quindi ha dimostrato, secondo i magistrati, di aver avuto un passato, oddio, non è che ci volesse tanto visto i risultati, ha avuto un passato piuttosto turbolento e illegale, che lo fa che fa ritenere che lui viva di reati, questo scrive il giudice, e quindi è un delinquente abituale, ma anche ancor di più professionale, scrive il magistrato. Tra l'altro è un peccato, diciamo così, Giuseppe Guastella, perché non pochi, insomma, si erano aperti a difensori di Corona, dicendo che la condanna era esagerata, che alla fine si poteva redimere, sì, che in prigione era depresso. È vero che gli hanno spaccato tutti i denti, tra l'altro, è vera sì, questa hai cosa? Hai ragione, sì, su questo bisognerà ancora... Infatti, perché l'ha detto solo di recente. L'ha persi, diciamo che li ha persi. E allora tutti, compreso io sul Corriere della Sera, abbiamo detto che la pena complessiva alla quale era stato condannato Corona appariva eccessiva. 15 anni in tutto per una serie di reati, per quanto gravi. Ricordiamo che lui sta scontando una pena definitiva per reati quali la bancarotta, quali la corruzione, quale la spendita di banconote false, insomma reati, estorsione e tentata estorsione. Il più pesante, tra l'altro, è proprio l'estorsione da Tresseghe. Non sono reati qualunque, ma visto il comportamento complessivo di Corona, ricordiamo che la maggior parte dei suoi reati li ha commessi nello stretto giro di 3 anni, dal momento in cui fu arrestato nel 2007 su ordine della magistratura di Potenza, nella famosa inizio di inchiesta Vallettopoli, al 2010, è lì che ha combinato il tutto. Ora, il bilancio complessivo sembrava eccessivamente pesante, Basta pensare che spesso ci sono casi di omicidio, ma sono i casi della cronaca di tutti i giorni che non hanno questo tipo tanto. Di condanne, è vero, sì, sì. È vero, ci si arriva tramite riti alternativi, abbreviati, abbreviati sì, che consentono forti riduzioni della pena, però comunque poi alla fine il conto totale a volte è anche inferiore. Vero. Detto questo, Corona ha potuto beneficiare di una grande apertura di credito all'interno del Tribunale di Sorveglianza di Milano fino ad oggi. Però a guardare queste accuse, ma vale anche per Corona, io vorrei ricordarlo, vale anche per Corona in questo caso, la presunzione di innocenza. Certo. Prima bisogna vedere se tutto ciò di cui è accusato ora è effettivo, sarà è poi ritenuto no. Porterà ad una condanna o no. Beh. Ma comunque a vedere da quello di cui è accusato, questa fiducia non è stata premiata da parte di Corona. Vediamo insomma se davvero la fondatezza di queste accuse, per lui si spera di no, ma se poi è andata così, come dici tu, la fiducia è stata riposta male. Grazie intanto a Giuseppe Guastella del Corriere della Sera. Grazie a voi. Grazie Giuseppe, buona serata. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme ancora ai vostri messaggi, dice un ascoltatore. Se fosse stato un poveraccio avrebbe avuto poca attenzione ai suoi confronti. Sì, purtroppo è vero, succede anche questo. 349-238-6666 per WhatsApp e SMS, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte, il vostro canale privilegiato per interagire qui con il programma. Tra pochissimo lo spazio europeo. Vi ricordo intanto quali sono le notizie più importanti. Molto velocemente, appunto, il Renzi che apre sul cambio dell'Italicum alla direzione nazionale del PD che si è tenuta oggi, la minoranza Dem però dice non basta, quindi questo strappo ancora non è stato ricucito. Poi nelle presidenziali americane, di cui parleremo più tardi, dopo il video sessista, le frasi sessiste di Donald Trump, Hillary Clinton vola a più 11% su Trump e vince anche nel duello TV, però non sfonda, non riesce a mettere a KO Trump. E poi Moscovici, commissario europeo, che dice siamo disponibili alla flessibilità per l'Italia, ma l'Italia deve dimostrare serietà sulla riduzione del deficit. E adesso l'Europa. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati gli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Apriamo un dossier delicato, quello della sicurezza alimentare. Quando parliamo di sicurezza alimentare, pensiamo immediatamente alla qualità delle materie prime, alla loro provenienza e successivamente all'ambiente in cui vengono lavorate e confezionate. Difficilmente pensiamo alla sicurezza dei materiali a contatto con gli alimenti. Eppure, a seconda della composizione e delle proprietà, i diversi materiali a contatto con gli alimenti possono comportarsi negativamente. In questi casi, le sostanze chimiche provenienti da questi materiali potrebbero mettere in pericolo la salute o modificare la composizione dei prodotti alimentari. Solo 4 su 17 dei materiali a contatto con gli alimenti sono attualmente coperti dalle misure specifiche sulla sicurezza previste dalla normativa quadro dell'UE vigente: plastica, ceramica, cellulosa rigenerata e materiali attivi intelligenti. Ne parliamo con l'europarlamentare Pier Nicola Pedicini, che saluto e al quale chiedo quali sono gli altri 13 materiali e come ci si comporta con questi. Ci sono gli adesivi, le gomme naturali, il vetro, i metalli, oppure la carta, il cartone. Pensate al cartone che viene utilizzato per trasportare la pizza a casa, gli inchiostri, i prodotti tessili, le vernici, anche il legno. Sono tutti materiali che normalmente possono essere utilizzati per creare dei contenitori per il cibo, che vengono utilizzati in questo senso e che purtroppo ad oggi non sono ancora regolamentati nella maniera appropriata. 17 è il numero totale di materiali che sono comunemente a contatto con i cibi o sono solo quelli analizzati? 17 è il numero totale, nel senso che con 17, con tutti questi materiali presenti in questa lista, si ricopre un po' tutta quanta la gamma di materiali che normalmente vanno a contatto con i cibi. Noi abbiamo segnalato anche mancanza di informazione adeguata, scientifica, rispetto ad alcuni materiali che sono contenuti ed alcune sostanze tossiche che sono contenute in questi materiali, come ad esempio gli interferenti endocrini oppure i bisfenoli, e cioè tutte sostanze che hanno un certo grado di pericolosità perché correlate a malattie croniche, a problemi riproduttivi, a disturbi metabolici, anche allergie o problemi dello sviluppo neurologico. Quindi abbiamo cercato di inserire all'interno di questo atto parlamentare importante della Commissione Ambiente degli elementi molto molto rigidi rispetto a queste tematiche che poi si possono ripercuotere sulla salute dei cittadini. Ci può fare un esempio di materiale pericoloso per la salute, per l'ambiente e delle conseguenze? Ad esempio nel cartone per fare la pizza, ma anche nella plastica delle bottiglie per l'acqua, no? Quando la plastica sta per lungo tempo, magari c'è anche l'esposizione al sole, c'è questa tendenza a rilasciare sostanze che poi dopo non sono tossiche per il nostro organismo. Chiediamo alla Commissione di normare per poter ottenere un livello di sicurezza maggiore rispetto a questo tema. Euzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. E ora subito le presidenziali americane, ci colleghiamo con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti. Ciao Marco. Ciao a voi. C'è stato il secondo dibattito elettorale, o meglio il secondo duello TV tra Hillary Clinton e Donald Trump. Sono volate scintille di nuovo, sembra che lei abbia vinto anche questo secondo duello, non fino al KO dell'avversario. Fra l'altro Marco, il capo dei senatori repubblicani, mi pare ieri o l'altro ieri, aveva chiesto addirittura il ritiro di Trump, perché vuol dire che continua questo imbarazzo nel partito repubblicano, anche se c'è un ascoltatore che dice in realtà quello che raccontate su Trump vuoi vedere che non è la verità, dice Paolo Da Luca. Buonasera, ma se su Trump fosse diverso da come la raccontate voi, raccontacela tu, Marco. Ah, guarda, non so cosa si riferisca l'ascoltatore, però diciamo che Trump è stato a tutti gli effetti Trump, ancora una volta nel dibattito, molto aggressivo, come ricordavi tu, molto all'attacco, e quindi diciamo nel giudizio complessivo dei sondaggi post dibattito e dei commentatori assai poco presidenziale. Hillary Clinton è rimasta diciamo sulla difensiva, è rimasta soprattutto compassata e controllata, quindi non ha affondato particolari colpi contro Trump, ma è sicuramente nel giudizio dei sondaggi anche post dibattito sicuramente apparsa più presidenziale. Anche il body language di Trump, occorre dire, è stato il linguaggio particolarmente del corpo. Brutto, sì, il linguaggio proprio del corpo, i movimenti, cioè con l'aria proprio sempre dura, arrabbiata, si muoveva in continuazione, anche con fare anche abbastanza minaccioso, quindi un Trump che nelle primarie, quindi anche un'involuzione se si vuole guardare solamente al candidato Trump, mentre nelle primarie assieme all'aspetto duro e aggressivo a quello univa anche un aspetto un po' goliardico della battuta, anche diciamo sarcastica nei confronti degli oppositori, degli avversari. Qui invece è un Trump veramente molto molto cupo, molto molto molto arrabbiato, molto molto risentito e appunto con un'aria francamente abbastanza minacciosa se lo si vede, diciamo, proprio a guardare le immagini, indipendentemente dal contenuto delle sue proposte politiche, che occorre dire ieri era riassunto in una sola parola: disastroso. Ha continuato a ripetere che l'America è un paese disastroso e forse pensando che più lo ripete e più la gente si convince. Ci può credere. Marco Valsania, io ti ringrazio, la tensione chiaramente cresce perché siamo a meno di un mese dalle elezioni presidenziali. Noi ci riaggiorniamo alle 22:00.